sana. E beh, a posto l'ho messo con l'apparecchio, cioè tutto quanto in regola. Non ho bambacore di lì. Sì, anche io ce l'ho anche io. Non uso poco. No, quella è bella, nuova. Mettiamo bene, adesso non so se... Mettiamo anche per sera, ma non sono riuscito a risponderla. Poi c'erano tutte le mani sporche di cose, di, sai, quei truccioletti, dell'alluminio e tutto, che ha potuto passare per l'aspiratore, quanto mi ha detto un casino pulito, tutto quello che ha fatto soffitto. Se proprio non ho l'incubo di guardarmi di notte, abbassare la voglia e niente. Chiudo la finestra e sbatta. Capito? E non so se gli ha messo il microfono. Io gli avevo fatto l'adattatore del mio, esatto, quello mi si è sempre asciutto un po' bene, non so che microfono le mette, ma ti stavo dicendo, ma come l'hai fatto il socco col trappano? Oh già, perché col trappano, sai cosa succede, siccome c'è quella battuta, non so se ce l'hai presente, la battuta che praticamente appoggia la finestra è una zecca in alluminio, come diciamo queste finestre di due generazioni che ho fatto fare, perché poi parte tutta la barriera. E come appoggiavo il trappano, il mandrino toccava il marmo, quindi mi graffiava il marmo. Allora con la molettina gliel'ho intaccato e gli ho fatto praticamente una canala, capito? E l'ho infilato dentro. Ah, l'hai fatto a modo, lo potevo fare anche con la punta del trappano. Levigarlo così e consumarlo. No, già, ma gliel'ho intaccato proprio con la molettina perché è molto pericoloso quel disco al taglio, perché c'è poco poco, però ecco, dalla scrivania alla finestra sono 80 cm, dietro per passare dietro per i graffi, e quindi ti scappa la mano, perché appena ti tirate la pancia in due, allora gliel'ho appena intaccato. E l'ho fatto tutto a seghetto, l'ho messo alla mano, piano piano, è uscito un fatto lavoro. Ci sono i graffi bene messi dentro, l'ho fascettati, quelli che sono fuori nella finestra, e vabbè, io vabbè, adesso te l'aspetto, perché ancora si dicono che lo voglio mettere, sia che devo fare qualche calata di RD 58 per qualche antenna con il supplementare, eccetera, e poi lo chiudo, capito? Io me lo compro più 25 metri di RD 58, per cambiarlo, e poi non l'ho cambiato. Non ne ho bisogno. L'ho sbucciato per mettere il piede, era perfetto, non era ossidato né niente. Ma io dovevo c'è Daniele in macchina il cavo dell'antenna. Sì, ha quello trasparente. Bello, ancora non era il 59, non è il 58. Il 59 è doppia calza. Sì, vabbè, ma magari è più debole la guardia, lo conosco come questa trasparente, fa passare di più raggi solari, eccetera. Secondo me, per la macchina va bene, ma per l'abitazione non mi dà un po' a desiderare. No, già, per esempio, tanto non c'è quello guainato nero, che attira meno possibile i raggi solari, ci vuole quello lì. La macchina già va bene, c'era un libro ancora più grosso come l'RG, come 213, nel cambio, capito? Va bene, ma quando sto trovando, mamma mia, tra l'altro non si vedono più i cavi, la batteria della barriera, insomma, è uno schifo. Almeno è fatto qua, non si vede da più. Adesso devo tappare nuovamente, coprire il... mettere il tappo del pluviale, quello chissà quando lo faccio, se non c'è l'autoscala è un bel casino lì. Appagato. E perché è molto più grande rispetto al buco? Guarda, sperato, ma con un po' lì. Dice, bravo, che sta tutto tre mani. Dice, ma caluso, è quello spagnolo, quello di Barcellona. Portogallo, non so che cazzo, ogni tempo entra la sera. E non è chiaro che è grande già, cioè mi ci deve fare la mano per prendere il cavo. È un bel grande il buco. Forse a Portogallo, ma quando è arrivato a Portogallo, ho detto a farlo. Pasqua, sia l'isola della Sardegna, Italia che va chiamando. Rosa pure te, scusate la chiesa di nostro portoghese, la provincia di Sardegna, Italia, a chi sono affidate forze, a capo, a Sardegna, a capo, a 7351, a chi è mai, a chi sta a Torri, a mai, a consigliere Miga, a Bianca, a Rosa. Mario, ti ho già copiato, se non erro, ti ho già copiato l'altro giorno. Confermi? La settimana passata, forse la settimana passata. Ma è chiaro che radio. La settimana passata, per uscire per la sua volta, bisogna dire, a parte me, c'è la Sardegna. Ma già, ora giunto a chi arriva, chi è questo, cambio. Attento Mario, ti scuccio male del radio. Come ti diciamo, come ti ho chiarato la porta? Ti scuccio male del radio. Regolare la radio. E vuoi sempre regolare la radio, perché fanno il senso. E a scarica, è trattato, la scarica è trattato già. C'è troppa preamplificazione con l'eco e quindi strappa la modulazione. Ah, già per il rosso, ma no, sì, non riesco, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Mario, sta uscendo muy mal de radio, entiende Mario? Ma non si muove la radio, ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sei strappato, sei strappato, le unghie che te strappano. Ferrari, pure chi ha fatto un piano, vent'anni c'ha. Dimmi una cosa Mario, con quanti watt stai uscendo? Muchacho Marcaluso. compagnero. Alla vista, amico, a te sempre, e poi una nuova opportunità, ciao ciao, un abbraccio di aperta, ciao. Ciao Mario, ciao, a presto, simpatico. Ho detto, ma due o tre volte l'ho copiato. Due in Italia, molto lineare, soprattutto pure in Italia, hai molto potenza, ma sono molto altro, molto altro. Gli italiani ti arrivano forte, noi siamo italiani sardi, Mario, italiani sardi, ci abbiamo il pelo nel cuore. Qui in Portogallo sono 4-4, 2-4, ma sono 4. Mi sardi, non c'ho caliente. Fuggi così, ne? Avanti in Portogallo. Portigalli, via avanti. grazie tanto, grazie, grazie. Che lo schiero, Portogallo, Portogallo, Sofia Jamaica, che io prendo verde notte di Portogallo. Ok, Alfa Mike, te ne ho ascoltato al 100%, mio hermano del Portogallo. La città nostra è Sassari, nord Sardegna Italia, K. Anche nord Sardegna Italia, noi ho ascoltato per Portogallo Radio 5, per Santiago Nord, Mike, e per nord Sicilia Italia, buonasera e molto gusto che città. Poi vagava, mi albano, dai. Il mio nominello è Gianni Doppio Rum, in compagnia di Claudio Sparvero, che ora ti passo. Avanti, mio hermano Claudio. Logando, è da molto bene, mio hermano dei Bordigali, a chi Radio Sparvero della Ida della Sardegna mi intende? Sì, sì, ti intendo, buonasera, 73, anche 51. Muy cordial, muy gracias, gracias Tamba por completo. Gracias, gracias, muchas gracias. No ci stanno problemi, cari amigos. Ahorita, lo chiami Portigal y responde, viste ya. Vaga, no ci ha detto il tuo minero, mi hermano, il tuo minero. Dentro l'amico de Portugal. Sì, ascolto, ascolto, Portogallo, ascolto, Italia. Qual è il tuo nominativo? Nomineros. Avanti. Mi nombro Matio, Marco, Alfa Marco, Alfa Marco, operatore Matio. Tio. Ma Matteo, il mio è Gianni, Gianni Doppio Rum. Il tuo nominativo qual è? Attenzione, attenzione. Io non vorrei mancare la mia vita. Daniele in fase spagnola. E infatti è così. No, c'è un bip di diverso, è un bip di livello MS200. Avanti giovanotto della Spagna, e te che sei? Sento ogni tanta voce qua su 45, su 48, che chiama. Vabbè. Cosa ero dicendo? Ma e poi il ricevitore hai trovato la vita, non te ne hai ripreso, ne hai ripreso più. Ragazzi. Ce n'era uno l'altro giorno a Giupiteo. Bello, veicolare però, non portate, sarà quanto una van 48, così. 50 euro compro subito, infatti mi sono indicato di dirlo a Antonio Barracuda, se ce l'avevo preso, bello l'ho ingrandito, molto bello. Lo so, ma ho bisogno flusci, no, per il momento resto così, poi, più là si vedrà, se ne ho ancora voglia di fare ascolto, perché c'era un periodo che non lo stavo proprio più usando il ricevitore, non stavo più ascoltando niente. Adesso iniziamo. Poi mi sono buttato a aggiornare perché ho visto appunto che tutti con Azzemo piazzando e io sono rimasto un po' indietro, la verità. Guarda, adesso c'è tutti i punti sotto controllo, avevano tutti a fondo scala, e invece che l'altro capo erano tutti i baci, non riuscivo a sentire bene, eccetera, adesso. Anche la mia ricomputazione dalle 2 alle 1, quindi c'ho tutto separato, c'ho 780 in tutto in base, ce l'ho veicolare, non ne ho io, 780 in ATF, il 7271 della Icon sempre base, ce l'ho in 144 per quanto riguarda le bande laterali con la direttiva. E poi il 3210, il 2725 ce l'ho in WTF, però il 2725 è quello è della macchina, era un altro a parte, non so, prendo qua 7004, quello nello stacco, bacalhau, bacalhau, bacalhau. E non vedo già di Macaluso, mangiare, mangiare. Thank you. analfabetici, vecchi, anziani, ma questo avrà avuto, penso, a 52 anni. Di quelli da persona grande vorrei. E su 52 anni penso che avesse 50, 52 anni. L'hanno ributtato tutta pittorra nuda nella padella, l'hanno fatto direttamente fuori, misurato pressione e tutto quanto, elettrocardiogramma, se hanno fatto elettrocardiogramma è proprio perché era un arresto cardiaco oppure anche overdose può essere. Sì, ma adesso già sono organizzate le ambulanze, ho visto, quando l'ho portato a me la nubi, la mia è poco. Lo so, noi siamo stati i primi ad aver attrezzato in ambulanza, i primi a fare circolice, forse se siamo stati noi. Deciso, no? Collarini, ragno, ked, tutto quanto. Poi sto venire stamattina alla piazza dei Cini. Quando Marco lo doveva trasferire da un ospedale all'altro e glielo ho nominato Daniele, sì ho capito, lo conosco, però non ho detto niente. Un bel strano sembrava, no? Sì, io lo so stamattina, andiamo con l'invisa, ho detto batto, vado, sì, mi hanno richiamato, c'è la carenza, solita. E quindi prendo quelli che ne sanno già, quelli più esperti. Allora, mi ricordo, mi è piaciuta come ha lavorato. Come ho lavorato, c'era una ragazza, subito ha parlato con Marco, gli ha chiesto tante cose, sapevano trattare bene. Mi sono molto gentile, anche quando avevo fatto il trasferimento a via Pascoli, a quale mi associo adesso a un po' misericordia. Sono molto, molto gentili, ordinati, insomma, ci sanno fare, dai. Ci sanno fare sia con i pazienti che anche con l'utenza, sono abbastanza gentili. Io, un ragazzo che è morto della misericordia al palazzetto, che stava facendo palestra bunker lì al palazzetto, nella palestra bunker, quello lì io c'ero, abbiamo portato l'ossigeno noi per primi, tutto quanto, massaggiato, un cavolo, non c'è stato nulla da fare. Mollava, si riprendeva, poi di nuovo il manico cessava, non li massaggiavamo e si riprendeva, poi di nuovo. E comunque ci ha provato anche, ci sono venuti i medici e a darci il cambio, poi è venuta la misericordia, eccetera, eccetera, lui era un volontario della misericordia. Cos'era l'evento? Un fatto al palazzetto? Non al palazzetto, la palestra bunker dove si allenavano per la pallacanestro. C'è, diciamo così, la pallacanestro, stavano allenando e si è sentito male, si è accasciato. Un ragazzo giovane, un poveraccio. Anche, non lo sapevo. E la palestra è portata a lui adesso. Si chiama... Adesso non mi ricordo come si chiama, Simula, me lo ricordo, però il nome non me lo ricordo. Non è interessata a lui la palestra. Simula? Dove era? Il Terese? Era di Sassari. Ed era controllatissimo perché giocava in una squadra, diciamo, che faceva agonismo. Ah, Luca Simula, te, cioè, che hanno fatto il trofeo a poco. Esatto, Luca Simula. Sì. E hanno fatto anche proprio il calcetto, il coso. Già ho capito chi era. Paga, poi vabbè tutti l'abbiamo tentato. Abbiamo fatto anche l'ossigeno portatile. Siamo andati in sede con l'ambulanza d'urgenza, abbiamo preso l'ossigeno, abbiamo portato lì, attaccato l'ossigeno, mentre gli altri già lo massaggiavano, lo facevano. E non c'è stato nulla da fare. Lo so, quando è così un casino, ma come va bene già, quanto vogliono le sedi, sono dato 27. essere lì, hai capito? Sto portando adesso perché mi sono trattenuto un attimo amico e... è così. Sì, io. Poi lascia perdere, sa, se non ve nessuno, cazzo proprio è. C'è la fame, contro fame, cazzo, mamma mia, per carità. Io voglio vedere il cazzo del 2 quando faccio il mese, quanto mi mette in mano, voglio vedere. Me lo ripeglio, me lo devo togliere, cazzo, se no siamo veramente nella cacca. Beh, non credo che ti parlava un mese intero, quindi in due. Beh, la cosa ti va, speriamo che ti vada più da buono. E adesso vediamo. A lui, come regola, il primo impegno dovrebbe essere intorno agli 800, 850, boh, vediamo. Adesso mi ha detto che fa di tutto per... mettermi da parte e dammi lo stipendio. No, ho detto quella lì, ho detto, cazzo, che vengo in occhio, cazzo, così a guardarci in faccia, non ho capito. E infatti, proviamo per bene le cose, se quello che hai gratuito ti dà, così lasciamo male creare, e non mandi bimbaro. Giustamente, ma se lui fa le cose, fa dell'olocchio, lui ha finito di vedere a me lì, hai capito? E non lo voglio manco vedere neanche far finta di non conoscerlo, hai capito? Meglio che non si faccia vedere perché cazzo ce l'ho becco qua, c'è stati scioccati su veramente. Mia, c'è. Sì, già ho sentito, si deve ci dovessi, buonasera. Sono qua dove abita il Falchetto. Ah, stai andando? Scappa. Il Falchetto è? No, sto andando adesso al lavoro. Sto passando da qua, da mia bulla, per trovare quella zona lì. Ho capito. Andave. Scappa. Beh. Dice che la... dovrebbe esserci un po' di maestrale, un po'. Ma ieri notte com'è? La fretta ce n'era? Cazzo ce n'era abbastanza. Si è alzato per quel cazzo di maestralino, oi, si è risvinato un po', però poi è sceso nuovamente il caldo. Mamma mia, cazzo, guarda, allucinante. C'è cosa bello una trotta, ma c'è un pochino di migliori. Mi sono alzato. Mi sono fatto alle 4 e mezza. Mi sono fatto una bocchetta d'aria nel buongiorno. Mi si poteva alzare. Non si può riesca. Poi verso le 5 ho iniziato a fare il cielo fresco. E allora ho dormito fino alle 7 e mezza. E poi mi sono fatto di tutto. Sono rotto le balle. Tanto più di quello che non si dorme, che se non dormo. Ma notte mi sembra invece un po' grigio. Speriamo. E lei, cosa hai fatto? Tu sei gli ombrelloni, hai piegato? Sono volati un po' di ombrelloni, sono dovuto andare a ricoprarli perché il vento li ha portati via e ce n'erano, c'era un po' di casino. E poi c'era una festa lì, hanno organizzato una festa, no? E di coso, come cazzo si dice, di laurea, hai capito? Dalle 9 fino alle 4 e mezza di mattina. No, mi dispiace. Scappa. Non veniva bene. E gazzionera, c'è qualcuno di gazzionera. Tutti maschi. Un po' maschi e... Non, cazzo, alla fine erano tutte embriache le tedesche, dunque... Ci sono fatti il bagno in mutande, cazzo, guarda, si vedeva tutta quanta la tappa del culo, cazzo, bello, dei culetti, cazzo, mamma mia, ho detto, mamma mia, come sto, fermo Giuseppe, dove stai andando? Attenzione, attenzione! Seguimi, Giuseppe, il mangaglio ti si è addrizzato. Mangaglio si è addrizzato, cazzo. Stava per fare l'anno, altro che... Mamma mia, mamma mia. Hai proprio quelle mutandine lì, quelle tedesche. Ai, ai, ai, ai, ai. Tutto il lettore di Roma. A te, gente, voi mi si contate di me. Cappa. E poi stavano quel cortile muito. Canta tutta la sera, tutta la... quasi tutta la notte canta muito erano. Canta la matta, niente, e cosa che ci hanno bevuto, la matta, niente, vai, anche. Oi, oi, oi. Sì, già fa bene, muito. È fresco. Già fa bene, già fa bene. Lo senti dopo, lo senti, capito, giusto? Ehi, cappa. Metto in mezzo, no? Ma nella spiaggia dove ci sei tu l'hanno fatto? Ehi, dove sono io, dove ci sono io, dove faccio il servizio io. Hanno chiesto il permesso. Vabbè, hanno chiesto il permesso, mi pare questa della laurea e hanno concesso. Beh, giustamente hanno pagato la cosa a quelli del ristorante e gli hanno fornito tutta quanta la roba, capito? Tutta la merce, la roba l'hanno messa con il ristorante e gli hanno pagato la serata, capito? Hanno anche mangiato allora? Allora, hanno mangiato, bevuto e poi c'era anche quello che metteva la musica. Quindi è in festa, cazzo, dai. Almeno te la sei passata bene ieri notte. Ma sono passata bene, sì. Magari ho detto, cazzo, ogni sera così. A tenermi compagnia fino alle 4:30, a me cazzo è stata alle 7, me ne dovevo andare, ho fatto le pulizie e me ne sono andato alle 7. Salutami Armano, avanti! Avanti, avanti Armano, avanti! Fondi, allora abbia delle luci. E Giuseppe, almeno ti fa compagnia la musica, avevi sexy drugs e rock and roll. Super fine, toda la Italia, Chavezzo! Dove vinti? Cambio! Sento collega del Portogallo, se ascolti l'isola della Sardegna, Italia. Sto parlando con il capitano, con qualche italiano, un continente. Ciao, mia mano da Palermo! Palermo sta parlando, l'ho sentito basso basso. Giuseppe. Sì, sono qua. Ma Claudio, di una cosa, non la vedo. Ci devo mio hermano Pepe. Cazzo, lo copro. Che ci abbiamo un altro canale qua? Giovanni da Sciola. Io il 43, Giuseppe, basso il 43, cazzo, l'unico spagnolo che sta attendi. Non la sai se l'hai sentito tu a Sandro? Sandro la tigre? Cappa. È passato qua stamattina, perché? No, perché volevo chiedergli quanti miliardi aveva portato, hai capito, miliardini? Quanti ne aveva lasciato giù al Lido? Uno o due? Senti chi fa di Dio. A me mi è sembrato di vederne due, però non so se ce l'ha portato via uno, perché ne ho vinto solo uno, poi non lo so. Volevo sapere se era sceso lui e poi se ce l'aveva portato via. Non lo so, Giuseppe, non mi ha detto niente, è passato stamattina, ci avevo preso una cosa veloce, è passato preso una radio e basta. Qui c'erano sempre cose da fare, infatti non ho sentito tutto il giorno, pensavo che si facesse sentire, non lo so Giuseppe. E domani mattina chiamala, se è troppo tardi. Domani mattina lo chiami, glielo dici. Cappa, vabbè, non ci sono problemi. Già, avremo modo di incontrarlo giù a Ariero quando scenderà a trovarlo. Intanto lui scenderà nella verso le 7:30, 8, che poi ho saputo che l'altro mese dovrebbe esserci un mese di inferno, perché quasi ogni sera dovrebbe esserci una festa. Ma lì da te, non sei contento, se non incassa ti può pagare, no? non solo direttrice a Trento, il nome dello sa, no? Butta per ciò, lui, cioè, dice controlla 1000 persone, sì, ma io, come ho detto, la bocca, come faccio io a controllare 1000 persone? Se poi mi devo controllare anche la spiaggia, non ho capito. Mi metta qualcun, metta suo figlio a controllare le persone e io controllo la spiaggia, se no tutto questo non posso fare. Vabbè, certo che è un casino, lo saluto. Questo è un casino. Un colpo all'incudine è andato a martello. Hai capito? Cazzo, con due papere, ma com'è quello là, già? Con due papere, no, com'è quello lì? Due piccioni con una fava. Hai capito? Due papere per un uccello, tu sei. Magaio glielo do a lui io, la matta viene vaia. Io mi sto, devo uscire arrivato, dici. Siamo qua alle 4 corsie, dai. Quasi al bivio Argentina, lago di Paris. Lago di? Dove sei arrivato? Il bivio tra Argentina, hai capito, e il lago di Paris. Vale. La bara mi serve, te la faccio prenotare, cambio, c'è un amico che stanno vendendo le bare a metà prezzo. Sì, a codice d'accordo. Oi, bancaria, gentiera, per figli Alghero, sono lì. Sì, devo vedere sempre dritto. Via, per girare adesso qua a Bancali, dai. Che gira bancali, Giuseppe? No, adesso il bivio, Argentina Bancali, capito? No, pensavo che mi gira bancali, non entri dalla tua delle due mani. Siamo qua, adesso, piano piano, ci stiamo scendendo. Gioppa. Va bene. Cosa già mi sono indicato? Ah, beh, l'hai fissato già col pannello della radio, no? No, negativo. Non l'ho ancora fatto, Claudio, non ho avuto tempo. Mi stava stressando con quella sala, adesso meno abbiamo finita. Devo mettere solo sotto traccia quel filo del televisore e basta. Poi ha penalizzato lo stereo, mi ha messo le casse una sopra l'altra che non mi piacciono, le devo sistemare in un modo migliore. Quando ho voglia prendo il cavo, gli metto il filo nuovo e rifaccio l'impianto nuovo. E io? Vabbè, lì comunque li ho visti di quello. Quello, come si chiama? Quello carrelle, quelle piccoline che ci sono, sta marcato. Per fare la fermaguida, va. Già lo so, sì, che ci sono. E qualche cosa mi inventerò, perché non è possibile che di volta ne farà tutto. E bisogna mettere qualche fermino, qualche cosa, no? A un certo punto, poi quando si svita la buonanotte, che cavolo me ne frega. Infatti ti fai la misura giusta, come avevamo detto. Tieniti fermi, infatti non posso rischiare che ti ringrazia tutti voi che tutti in alto. E dopo il fatto che uno è collegato con l'altro, uno si tira l'altro, un casino, sono caduti sul muro, hanno buccato il muro, il gara si è caduto sul muro, ha toccato il muro, ma non male, non si è rovinato. E là solo gli ha fatto il segno nel muro, però l'apparecchio è rimasto, si è messo il muro sopra, però non si è graffiato, l'ho pulito e boh. Però nel muro ho dovuto struccare, ripitturare, eccetera, eccetera. È un casino. Se sbagli poco a poco che lo tipo il ginocchio ti ringaggi perché c'è un centimetro che lo tiene, che è di tenuta di coso, di corsa, diciamo. Basta che da un colpettino con uno, i guaraghici, poi dopo tutto il resto ha preso, blu, e poi giunta lì alla corrente anche te se li tocchi. No, bisogna si mettono dei blocchi dietro a fine corsa in modo che non vada avanti. Sì, anche così può fare. In modo che non vada avanti, certo. Sì, davanti. E ce ne andiamo a vivo. Sento musica, tum. Oh già. C'è dove la musica? Te lo dico io, là. C'è il bar nuovo a... lì a... cosa, come si chiama? Dietro l'ippodromo, lì dove c'è la pinetta vicino a Falchetto. C'è un baretto che mette musica dal vivo, c'è il cantante che canta e poi fa cantare gli altri a karaoke. Siamo andati con Falchetto quando la sera che tu non c'eri, che non sei venuto. Siamo andati io, Falchetto e Giuseppe. Ma questa sembra una musica che fare simile, qualcosa qua vicino. Perché sono dall'altra parte, capite? C'è la finestra del solo che fare simile, San Camello. Non so, ma sentivo chiara, roba di tamburo. Cosa hai detto, Giuseppe? Ho detto no, Gianni, quanto gliene serviva di quel capo per le colonnine? Oh, già ce l'ho, Giuseppe, ce l'ho una matassa. Ah no, pensavo che ti serviva il capo. No, te lo davo io, di quello grosso. Se ce l'hai grosso, sì. Se ce l'hai grosso è meglio. Ma due poli? Quanto te ne serve? 10 metri? No, di meno penso, di meno. Tu già ce l'hai presente, l'angolo vicino alla festa c'è lo stereo lì, devo mettere una colonnina a fianco alla base e un'altra colonnina che poi erano sul mobile, me le ha fatte togliere perché quando toccava faceva ballare i bicchieri, le ha fatto cadere un po' perché le ha fatti spostare, come andate a aprire la cristalliera un giorno, ma dovuto dire anche in tempo. E cappa, tipico, era quel capo che io avevo preso per fare l'impianto qua nuovo dell'apparato, dai, per fargli passare tutti quanti i cavi nuovi, però non c'è problema, tanto quando mi decido di cambiare anche il capo dell'antenna, mi metto quel capo che ha preso Claudio, almeno facciamo una cosa come Dio comanda, un lavoro ben fatto. Basta che non ci vedono questi cazzo di fili, incontro fili, e lo faccio bene, fatto, e non ce ne parla più. Tu perché non l'hai detto a me, te l'avrei fatto io il piatto, il mio non si vede nulla, non lo vedi che il mio tipo è bussato, tranquillo, non c'è nulla che si vede. E scappa. E prendi Claudio. Che impianto state facendo in macchina? Cambio quel capo dell'antenna, quello che ho messo normalmente, e li compro quello che hai comprato tu a fare il capo del che hai comprato tu, dai, quello che è il capo, il nuovo. Quello grosso per la macchina. Eia. Ah, ma Gesù, è un casino, guarda. Come fai a passarlo dentro il coso che non ci sta? Dentro le come si chiamano? Dentro le guarnizioni, come fai a passarlo? Non ci sta. Non ci sta? Non ci sta, no, Giuseppe, non gira neanche dove c'è l'attacco lì. È un bel grosso questo, anche ho voluto fare un buco nella finestra per far entrare il capo, allucinante. che lo voglio cambiare, perché se non c'è niente, né rumore, niente, capito, perché se c'è troppo rumore del conto della macchina, capito? Quella è la macchina con schermata, no? In caso. Vediamo già, mi dice, ci vuole dar qualche commerciatore, qualche mattore, qualcosa, lì la possiamo mettere uno di qui, gli affari del computer, la tavolimentazione, capito? Ma mettere quel cavolo lì non serve a niente, Giuseppe, è un lavoro, una fatica per niente. Perché questi cavi vanno bene a lunghe calate, io se ne avessi avuto 10 metri mica avrei cambiato il capo, avrei messo quello che c'era, capito? Invece ho messo questo perché ne ho 32 metri, ho tre calate da 32 metri, quindi è meglio avere un capo che disperde poco e di buona cosa, capito? Ma in macchina vogliamo fare, può mettere una RD59 per avere un capo un po' più buono, ma così grosso no, Giuseppe, ti devo aiutare. No, ma vabbè. No, ma stava dicendo Daniele, BNT, che lui ha messo un cavo sul bianco, quella cosa là, capito, con la calza grigia. Era pagato da Fusaro, l'ha preso da Fusaro, l'ha pagato 18 euro. Io ho preso un RD59 di quello trasparente a doppia calza con centrale rigido, ma è per macchina, però Giuseppe, non ho altre firme, quello per interno è per macchina, capito? Quindi quello lì lo puoi prendere, quello va bene, quello ci sta, piega bene, è un po' più grosso dell'RD58, ma certo questo che ho io è da... Allora, il foro che avevo fatto era da 12, fate il conto. Cioè da 14, fate il conto, è un cavo da 12, un cavo da 12 mm quadri, ma lo so, quello che mi fa in macchina. E scappa, e vabbè, che piglia quello che ha preso Daniele, vediamo un po' cosa ne esce fuori, perché una volta che rifaccio tutto quanto è impianto nuovo, perché gli elimino fili, filetti, cazzo, poi fili, quelli mi ha messo carino dalla batteria, quello lì glielo elimino, glielo faccio passare bene come Dio comanda, che non ci veda niente e tutto quanto, perché così si è abbracciata la macchina lì, non è che abbiamo un impianto di baratina, no, un impianto accanto alla macchina dei fattori. Guarda Giuseppe, appena si libera vieni sotto il casa, ci mettiamo sotto il porticato al fresco e poi faccio io con l'impianto, i cavi ce li ho tutti io, non devo comprare niente, ti metto il cavo quello che ce l'avevo io nella Peugeot, ti do quello già pronto, già con gli occhielli, col fusibile da 10 ampere, capito? No, metto quel cavo, puoi alimentare sia il baracchino che il lineare, con quello lo puoi alimentare perché ce l'avevo alimentato io con 300 watt, era perfetto. Poi rivediamo bene l'attacco dell'antenna, facciamo tutte le cose fatte bene, ti metto la farfalla nuova che l'ho trovata, col bullone passante, con l'antenna si pulisce bene con lo svitto, si fa una bella pulita, si rimette l'occhiello, si abilita bene, tu appena sei libero, ma non dici, vieni qua e la facciamo. Dai, che bella. No problem, adesso stavo in tempo lì. Sempre, lo sento. E riprendermi un paio di giorni come Dio comanda. Io verso il 20 di settembre faccio. Quando mi metto in mano non li faccio manco il sera, saluto lì a tutti. C'era forse poco da fare, se voleva entrare, stava provando il... quello che ci sia stato, la cosa del genere, mi è sembrato. No, mi c'è stato, non puoi fare che ora mi c'è stato. Ma poi fischiato c'era anche avuto quello. Ma boh, c'è veramente la siamo qua avanti già. Proprio rotto. E io. Non me ne dici? Sì, no. Brava, brava. Beh, studio come te, non c'è un problema, dimmi, già, già siamo qua. Ma mentre stavate parlando, mi ha fatto la pennichella. Ma sei tu allora che piace il PTT e a volte esce, a volte non esce? No, si vuota. Lo altro era quello là, ho grazie, l'altro. L'altro era? Sì, io. No, mi piace mia, ho visto solo una cosa con la noce certa, che c'era qualcuno che voleva entrare, non so. Dove sei arrivato, Giuseppe? Dopo San Marco. Dopo San Marco? Sempre bene, mi ascolti? 9:20, appicchi positivi, Italia. 9:20, appicchi positivi, quasi 9:30, radio 5:5. Oh, ma tante mecche, tante 30 watt e ciò, grazie. Non c'è una camminata, tante no, veramente. Anche la mia è bella, anche la mia. Fortunatamente gli avrebbe bene anche questa. Si danno un sacco di soddisfazione alla 27 L, va benissimo, è leggera, tuba che cosa tuba? Cazzo c'è la nebbia, fuori, non mi trovi roba di, come si può dire, di condensa. Io sono in, lui sono con montagna, sono tanto bagnato, fa bagnare la doccia, le gambe bagnate, c'ho dall'ombra, top 5 non so. Quattro volte mi sono fatto la doccia stasera, no, non devo dire va. Beato Giuseppe che lì al mare, almeno si diverte, piglia poi quello fresco. Buonasera, mezzo maniaco di bambini morti, buonasera. Veramente sono maniaco e mezzo, no? Mezzo maniaco. Ah, mezzo, cosa sei, un maniaco e mezzo? E allora, perché sono nato nel 50, sono maniaco e mezzo. Comunque, Antonei, devo venire a trovarti per regolare nuovamente quella questione, Antonei. Dello switcher, cazzo che il quello switcher mi pare se ne sta andando a fanculo, Antonei. Sì, vabbè, lo regoliamo, qual è il problema? Fatti questo lavoro adesso, cerca di incassare un po' di soldi, almeno sei tranquillo e dormi come si deve, a casa. Cioè, a casa, di mattina, di notte non dormi adesso. Allora sei tranquillo, poi ma, speriamo bene per agosto, se tutto va bene, che sbloccano questo cavolo di cose. Ti fa settembre, ottobre, novembre, sei tranquillo. E vabbè, comunque, ma le cose sono stato bene, perché c'era questa pezza di questa ragazza che cerca Yeah. favore adesso, quando sei libero, vieni a cambiare le lampadine del coso, ora è il lampadario, no? Ma quello è andato bene, te metti l'antenna a me, ho un bacio solo, te la mantiene e tu si sta della gaffa. Gaffa? Ah, ti credo. Benissimo. E poi ho visto stamattina che oggi quando avete entrato dalla terra su, ma sta provando la convenza. Sicuramente. Già va bene. Dove vuoi va? Tempo ci vuole, Antone. No, quello che c'è è sicuramente quella cappa di caldo che farà domani. Se non piove stanotte, domani ci sarà un caldo afoso che, per carità di Dio, io me ne andrò male tutta la vita, ma la mangiamo. Abbiamo già preparato tutto e ce ne andiamo al mare. Sì, come vuole fare così, infatti, lui dice che c'è il maestrale e quindi c'è l'infrescante. Domani c'è la seconda, come lo dice, la stessa cosa l'ha detto. È nuvoloso tutta la notte e poi ogni mattina il cielo rimane limpido, e la finita. Arriva col vento, la notte la parola del vento, come l'ho provato. L'infrescante la casa, c'è un caso. Poi quel vento caldo, puzzoso, i viri, mamma mia, morendo stavo, metto il fronte così, di giù, scendi giù, ma c'è il gioco, ho detto che scendo a occupare sigarette. Ma poi sigarette? Oh, non vuole andare, io ho preso il cibo, aspetta, stavo un tempo, se sto qua, ma poi si vede anche per domani, c'è il biglietto. Mi ha preso ieri, ma questa mi ha capito stamattina, e non le prendo altre, dice che non volevo altri, ricordo come aspetta di fumare, quindi c'è solo quello che mi ha detto. Ma che vuoi smettere di fumare? Beh, c'è la, come si dice, sempre l'altro un po', e il classico cartello del fumatore, perché non è che ti ha fumato una sigaretta, non è messo normale, ti ha fumato tabacco, quindi c'è di tutto in mezzo. Ti ha fumato una incinta, cazzo, incinta si mette a fumare. No, non è incinta. Incinta sono io, cazzo, in 2 mesi, non mi metto in basso avanti. Sto toccando solo acqua adesso. Voglio trovare un po' di liquidi, che se mi tocca fare una cosa, il mio parallelo, sta prendendo la pastiglia, la fare la pupù. Sì, però quando metti che tocca il bilato, la birra ti gonfia, preferisci bere un po' di bicchiere di vino. Io, vabbè, birra ne bevevo, diciamo, a zero, qualche bicchiere d'estate, perché piace, fresca, risettante, però no. Buona notte, me ne vado un po' al poggiolo, un po' insomma, il 3-3-8 via alle 9, alle 8 via, alle 7 del mezzo mattino lì, ma tu vai, si dà una cosa che, e te lo scaldare la roba, se invece, da cosa non lo dai si trova, fresco fresco lo fanno per le, non so cosa, per USP. Non c'è più niente lo portare, è un LED o lo USP? Allora, qua le LED ci sono focaccine, quelle, quelle rotonde, non bene morbide, domani la mattina le preparo, e poi ce ne vanno male. Poi acqua fresca, qualche lattina, e via, ma poi togliamo al mare, tanto noi andiamo via le saline, che c'è il posto, posto da Bombellone, quindi posso andare a qualsiasi ora, non c'è problema. Non è solo tutta la mattina, c'è il caschettino, poi sono un po' di amici, vanno tutti lì e ci troviamo tutti là con me. Va bene, dai, ti saluto.